Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Che noi in campagna siamo messi a confronto coi problemi irrisolvibili del mondo, irrisolvibili in ogni tempo e in ogni futuro, in maniera assai più spietata che non in città, dove comunque, se vogliamo, possiamo renderci completamente anonimi, pensai. Che in campagna le porcherie e le atrocità ci vengono sbattute direttamente sulla faccia e non possiamo eluderle. E che se viviamo in campagna, queste porcherie e atrocità ci mandano sicuramente in malora in brevissimo tempo. Questo, pensai, non è cambiato affatto da quando io me ne sono andato. Se torno ad Esselbrunn, crepo di sicuro. Di un mio ritorno ad Esselbrunn non c'è neanche da parlarne. Non ha senso neppure fra 5 o 6 anni, mi dissi. E quanto più a lungo sono stato lontano, tanto più è necessario che ad Esselbrunn non ci torni, che rimanga a Madrid o in un'altra grande città, mi dissi, dovunque ma non in campagna, e men che mai nella campagna dell'Alta Austria, pensai. Faceva freddo e tirava vento. L'assoluta pazzia di andare a Traich, di essere sceso ad Attnang-Puchheim e di essere stato a Vancam mi aveva dato alla testa. Per forza in questa zona Wertheimer era diventato pazzo, alla fine addirittura folle, pensai. E mi dissi che davvero era stato il soccombente di cui parlava sempre Glenn Gould. Wertheimer era un tipico uomo da vicolo cieco, mi dissi. Ogni volta che usciva da un vicolo cieco entrava in un altro vicolo cieco, poiché Traich da sempre era stata per lui un vicolo cieco, come poi fu Vienna e naturalmente anche Salisburgo, dal momento che Salisburgo non era stata per lui nient'altro che un vicolo cieco, il Mozarteum nient'altro che un vicolo cieco, e così la Wiener Akademie e tutto il suo studio del pianoforte. In ogni caso la gente come lui non può far altro che scegliere tra un vicolo cieco e l'altro, mi dissi, senza mai potersi districare da questo meccanismo. Il soccombente è già stato messo al mondo come soccombente, pensai. È stato da sempre il soccombente. E se osserviamo con puntigliosa attenzione il mondo che ci circonda, stabiliamo che questo mondo è composto quasi esclusivamente da uomini che soccombono come lui, mi dissi, da uomini da vicolo cieco come Wertheimer, che da Glenn Gould fin da primo istante era stato visto in trasparenza come un tale soccombente e uomo da vicolo cieco. E infatti da Glenn Gould per primo è stato definito come soccombente, in quel suo modo canadese-americano spietato ma anche assolutamente aperto. Che Glenn Gould, mi dissi, ha detto a voce alta e senza il minimo imbarazzo ciò che anche gli altri pensavano, ma non hanno mai detto a voce alta. Perché agli altri non è congeniale quel tono americano-canadese spietato e aperto, ma anche salutare. Ed è vero, mi dissi, che da sempre tutti quanti hanno visto in Wertheimer il soccombente, ma non hanno mai osato definirlo come soccombente. Ma forse, pensai, è stato solo per mancanza di fantasia che agli altri non è venuta in mente una definizione così azzeccata. Definizione che Glenn Gould ha creato fin dal primo momento in cui ha visto Wertheimer, con acume, devo dire, senza averlo osservato per molto tempo. Subito gli è venuto in mente il soccombente, al contrario di me che solo dopo averlo osservato piuttosto a lungo ed essere stato con lui per anni e anni, ho ideato il concetto di uomo da vicolo cieco. Abbiamo continuamente a che fare con tali soccombenti e con tali uomini da vicolo cieco, dissi a me stesso camminando veloce contro il vento. Facciamo una grandissima fatica per salvarci da questi soccombenti e da questi uomini da vicolo cieco, poiché questi soccombenti e questi uomini da vicolo cieco ce la mettono tutta per tiranneggiare il mondo che li circonda e uccidere a poco le persone che li frequentano, mi dissi. Per deboli che siano, e proprio perché la debolezza è radicata profondamente nella loro natura e costruzione, essi hanno la forza di esercitare sul mondo che li circonda un effetto devastante, pensai. Col mondo che li circonda e con le persone che li frequentano si comportano, mi dissi, con una spietatezza che all'inizio non riusciamo nemmeno a immaginare. E quando finalmente ci rendiamo conto dei loro veri impulsi, del meccanismo peculiarissimo del loro essere soccombenti e uomini da vicolo cieco, Allora è quasi sempre troppo tardi ormai per sottrarci al loro influsso. Quelli ci trascinano con sé, appena possono ci trascinano verso il basso, mi dissi, con tutta la violenza di cui sono capaci, disposti a sacrificare chiunque, anche la propria sorella, pensai. Dalla loro infelicità, dal loro meccanismo di uomini che soccombono, essi traggono il loro massimo capitale, dissi a me stesso, camminando verso Traich, anche se alla fine, come ovvio, l'utilità di questo capitale risulta praticamente nulla. Wertheimer si è sempre accostato alla propria vita con false premesse, mi dissi, a differenza di Glenn, che si è sempre accostato alla propria esistenza con le premesse giuste. Wertheimer ha invidiato a Glenn Gould perfino la morte, mi dissi. Neanche la morte di Glenn Gould è riuscito a sopportare e poco dopo si è tolto la vita. E in verità l'elemento scatenante del suicidio di Wertheimer non è stato il fatto che la sorella lo abbia lasciato per andare in Svizzera, ma la sua incapacità di sopportare il fatto che Glenn Gould sia stato colto dall'ictus quando ormai era giunto, bisogna che lo dica, al vertice della propria arte. All'inizio Wertheimer non ha sopportato che Glenn Gould suonasse il pianoforte meglio di lui, che di colpo fosse diventato Glenn Gould il genio e per di più celebre nel mondo intero, ma poi non ha sopportato neppure che Glenn, giunto al vertice del proprio genio e della propria mondiale celebrità, sia stato colto dall'ictus, pensai. A Wertheimer, invece, non restava che darsi la morte con le proprie mani, pensai. In un accesso di megalomania, egli si è seduto nel treno per Coira, mi dissi ora, è andato fino a Zitzer e lì si è impiccato, si è spudoratamente impiccato davanti alla casa dei Duttweiler. Di che cosa avrei potuto parlare coi Duttweiler? Domandai a me stesso. E subito mi risposi con un di niente che in effetti pronunciai ad alta voce. Avrei dovuto dire alla sorella ciò che davvero pensavo e penso tuttora di Wertheimer, ciò che pensavo e penso di suo fratello. Sarebbe stata un'enorme sciocchezza, mi dissi. Con le mie chiacchiere avrei solo infastidito i Duttweiler senza trarne personalmente alcun vantaggio. Comunque avrei dovuto declinare l'invito a pranzo dei Duttweiler con un tono più cortese, pensai. In effetti ho declinato il loro invito con un tono non solo scortese, ma addirittura inammissibile. Li ho brutalmente offesi e questo ora non mi stava più bene. Noi trattiamo la gente in modo ingiusto e la offendiamo con l'unico intento di sottrarci momentaneamente alla maggior fatica di un confronto sgradevole, pensai. E infatti il confronto coi Duttweiler dopo il funerale di Wertheimer tutto sarebbe stato fuorché gradevole. Io avrei di nuovo spiattellato davanti a loro tutto ciò che ha a che fare con Wertheimer e che sarebbe meglio non venisse più spiattellato. E come fatalmente mi succede sempre, lo avrei fatto con quella iniquità e imprecisione, in una parola con quella soggettività che io stesso ho sempre detestato senza neanche trarne come contropartita un senso di sicurezza. E anche i Duttweiler, mi dissi, avrebbero fatto i loro ragionamenti su Wertheimer che pure avrebbero dato luogo a un'immagine falsa e iniqua di Wertheimer. Noi descriviamo e giudichiamo gli esseri umani sempre e soltanto in maniera errata. Li giudichiamo iniquamente, li descriviamo con malizia, mi dissi. Ed è sempre così, quale che sia nel caso specifico la nostra descrizione o il nostro giudizio. Un tale pranzo a Coira coi Duttweiler non avrebbe potuto far altro che portare a malintesi e alla fin fine entrambe le parti alla disperazione, pensai. È stato quindi un bene che io abbia declinato il loro invito e sia subito ripartito per l'Austria, pensai, anche se, certo, non sarei dovuto scendere ad Attnang-Puchheim, sarei dovuto tornare subito a Vienna, andare a casa mia, rimanervi una notte e poi ripartire per Madrid, pensai. Non riuscivo a perdonarmi l'aspetto sentimentale di quella sosta ad Attnang-Puchheim e poi a Vancam, una notte così disgustosa e però necessaria se volevo visitare Traich, la casa lasciata da Wertheimer. Quantomeno avrei dovuto domandare ai Duttweiler chi ora si trovasse a Traich, perché nemmeno sulla strada per Traich riuscivo a immaginare chi ora si trovasse a Traich, giacché non potevo fidarmi delle informazioni della padrona della locanda. Quella è sempre stata una chiacchierona, pensai, e come tutte le donne del suo stampo dice solo sciocchezze e cose non vere. E può darsi perfino che la Duttweiler stessa già si trovi a Traich, pensai. La cosa più logica sarebbe infatti che lei fosse partita da Coira per Traich, non di sera come me, ma già di pomeriggio o addirittura a mezzogiorno. Chi altri, se no, potrebbe ora occuparsi di Traich, pensai, se non la sorella, la quale, essendo Wertheimer morto e sepolto a Coira, non ha da lui più nulla da temere. Il suo torturatore è morto, pensai. Il suo distruttore ha finito di vivere. Non è più al mondo e non potrà mai più immischiarsi nelle sue faccende. Anche adesso, come al solito, avevo esagerato e mi sentii in grave imbarazzo perché ad un tratto avevo definito Wertheimer come il torturatore e il distruttore di sua sorella. Ecco, pensai. Così mi comporto sempre nei confronti degli altri. Mi comporto in maniera ingiusta, addirittura criminosa. Ho sempre sofferto per il fatto di essere ingiusto, pensai. Il signor Duttweiler, che al nostro primo incontro mi era parso così disgustoso e che probabilmente, come ora pensai, non è affatto così disgustoso come allora mi era parso, il signor Duttweiler, pensai, non ha certo alcun interesse per la casa di Traich e anzi di sicuro non ha il minimo interesse per gli interessi dei Wertheimer in generale, mi dissi. Dal suo aspetto non si direbbe proprio che abbia alcun interesse per i beni lasciati da Wertheimer a Traich e a Vienna. Eventualmente il signor Duttweiler potrebbe avere un qualche interesse per il denaro lasciato dai Wertheimer, ma solo per quello, non certo per tutto il resto dell'eredità Wertheimer, mentre la sorella dovrebbe avere un interesse grandissimo per questa eredità, perché non posso pensare, pensai, che sposandosi con quel tale Duttweiler, la sorella di Wertheimer si sia staccata da suo fratello in maniera così radicale e definitiva da essere ormai del tutto indifferente al lascito di suo fratello. E dunque supposi, al contrario, che proprio adesso, lasciata per così dire in libertà da suo fratello a causa del suicidio dimostrativo di quest'ultimo, lei si interessasse a tutte le cose di Wertheimer con quella intensità che finora le era mancata e che forse ora avrebbe mostrato interesse perfino per il lascito di suo fratello riguardante le cosiddette scienze dello spirito. Con gli occhi della mente, come si suol dire, già la vidi a Traich china su migliaia, se non centinaia di migliaia di schede scritte da suo fratello e intenta a studiarle. Poi ripensandoci mi dissi, no, Wertheimer, pensai, non ha lasciato nulla, neanche una sola scheda. Questo gli corrisponde di più che non un cosiddetto lascito letterario, al quale egli stesso non ha mai dato importanza. Così, almeno, gli ho sempre sentito dire. Anche se non sono in grado di stabilire se dicendo questo parlasse sul serio, pensai. Molto spesso, infatti, le persone dedite a un lavoro intellettuale dichiarano di non dare importanza ai prodotti di questo lavoro. Invece gliene danno moltissima, pensai, solo che non vogliono ammetterlo, perché se ne vergognano. Dicono che si tratta di una ignobile insinuazione e denigrano il proprio lavoro per evitare almeno di doversi vergognare pubblicamente. E Wertheimer, pensai, era proprio il tipo da mettere in campo una simile furbesca manovra per quel che riguarda la sua cosiddetta scienza dello spirito. Se così fosse, pensai, avrei davvero l'opportunità di dare un'occhiata al suo lavoro intellettuale. Ad un tratto il freddo era tale che dovetti alzarmi il bavero della giacca. Continuamente ci interroghiamo sulla causa delle cose e una dopo l'altra prendiamo in considerazione diverse possibilità, pensai. E io che la vera causa della morte di Wertheimer era stata la morte di Glenn e non il fatto che la sorella di Wertheimer si è trasferita a Zitzers da quel Duttweiler, l'ho pensato moltissime volte. Non solo dobbiamo dire che, come sempre, la causa va ricercata in qualcosa di assai più profondo, in questo caso nelle variazioni Goldberg che Glenn ha suonato a Salisburgo mentre frequentavamo il corso di Horowitz. La causa è il clavicembalo ben temperato, pensai. Non il fatto che la sorella di Wertheimer si è separata da suo fratello all'età di 46 anni. In effetti, la sorella di Wertheimer non ha colpa per la morte di Wertheimer, pensai. È stato Wertheimer, pensai, che ha rovesciato sulla sorella la colpa per il proprio suicidio, con l'idea di deviare l'attenzione dal fatto che tutta la colpa per il suo suicidio e, in generale, per la sua catastrofica esistenza, andava attribuita alle variazioni Goldberg nell'interpretazione di Glenn e al suo clavicembalo ben temperato. Tuttavia, la catastrofe di Wertheimer ha già avuto inizio nell'istante in cui Glenn Gould, rivolgendosi a Wertheimer, gli ha detto che era il soccombente. Ad un tratto ciò che Wertheimer aveva sempre saputo fu pronunciato da Glenn Gould a voce alta e devo dire senza alcun preconcetto in quel suo tono tipico canadese-americano. Glenn, con quel suo soccombente, ha colpito Wertheimer a morte, pensai. Non perché Wertheimer abbia udito allora per la prima volta quel concetto, ma perché, pur senza conoscere la parola soccombente, Wertheimer aveva già da molto tempo familiarità con il concetto di soccombente. E però Glenn Gould ha pronunciato la parola soccombente in un momento cruciale, pensai. Noi diciamo una parola micidiale a un essere umano e, come ovvio, in quell'istante non siamo consapevoli di avergli detto una parola micidiale, pensai. Wertheimer si è tolto la vita a distanza di 28 anni da quando Glenn, rivolgendosi a lui nel Mozarteum, gli ha detto che era un soccombente, e a distanza di 12 anni da quando glielo ha detto in America. Gli uomini che si suicidano sono ridicoli, diceva spesso Wertheimer. Quelli che si impiccano sono i più disgustosi di tutti, diceva anche, pensai. Adesso, naturalmente, ci sorprende che egli parlasse così spesso di suicidio, ma devo dire che ogni volta, ora più ora meno, i suicidi li prendeva in giro. Del suicidio e dei suicidi parlava sempre come se questi due concetti non avessero per lui il minimo interesse, come se sia l'uno sia l'altro non potessero riguardarlo in alcun modo. Io ero un uomo da suicidio, questo lo diceva spesso, ricordai sulla strada per Traich. La persona minacciata ero io, lui no di certo. E riteneva anche sua sorella capace di suicidarsi, forse perché meglio di chiunque altro lui era al corrente della sua effettiva situazione, forse perché conosceva perfettamente la sua totale mancanza di prospettive, la conosceva come nessun altro, dal momento che, come spesso diceva, era convinto di vedere in trasparenza la propria creatura. Eppure sua sorella, anziché togliersi la vita, è andata in Svizzera da Duttweiler, si è sposata con il signor Duttweiler, pensai. Wertheimer si è poi tolto la vita in un modo che lui stesso aveva sempre definito ripugnante e disgustoso proprio in Svizzera. E dunque sua sorella, anziché togliersi la vita, è andata in Svizzera a maritarsi con quel riccone della chimica di un Duttweiler, mentre lui, Wertheimer, ci è andato per impiccarsi a un albero di Zitzers, pensai. Ha voluto studiare con Horowitz, pensai, ed è stato annientato da Glenn Gould. Glenn è morto nel momento per lui ideale. Wertheimer invece non si è tolto la vita nel momento per lui ideale, pensai. Se davvero ritenterò da capo la mia descrizione di Glenn Gould, pensai, dovrò inserirvi anche la sua descrizione di Wertheimer. E c'è da domandarsi chi sarà al centro di questa descrizione, se Glenn Gould o Wertheimer, pensai. Partirò da Glenn Gould, dalle variazioni Goldberg e dal clavicembalo ben temperato, ma per quel che mi riguarda, Wertheimer avrà in questa descrizione un ruolo decisivo, già che per me Glenn Gould è sempre stato in qualche modo legato a Wertheimer e viceversa Wertheimer a Glenn Gould. E forse, tutto sommato, è stato più importante Glenn Gould per Wertheimer che viceversa. Il vero punto di partenza dovrà essere il corso di Horowitz, la casa dello scultore a Leopoldskron, il fatto che 28 anni fa, del tutto indipendentemente uno dall'altro, ci siamo avvicinati l'un l'altro in un modo decisivo per la nostra vita, pensai. Il Bösendorfer di Wertheimer contro lo Steinway di Glenn Gould, pensai. Le variazioni Goldberg di Glenn Gould contro l'arte della fuga di Wertheimer, pensai. Glenn Gould non deve certo a Horowitz il proprio genio, pensai, ma Wertheimer può senz'altro ritenere Horowitz responsabile della propria distruzione e del proprio annientamento, pensai. Perché Wertheimer è andato a Salisburgo attratto dalla fama di Horowitz. Senza la fama di Horowitz non sarebbe mai andato a Salisburgo. Comunque non ci sarebbe andato in quell'anno che per lui è stato fatale. Le variazioni Goldberg, che pure sono state composte con l'unico scopo di rendere sopportabile l'insonnia di un uomo che ha sofferto di insonnia per tutta la vita, pensai, hanno tolto la vita a Wertheimer. Composte originariamente per ristorare gli animi, dopo quasi 250 anni, hanno tolto la vita a un uomo senza speranza. Hanno tolto la vita a Wertheimer, pensai, sulla strada per Traich. Se 28 anni fa Wertheimer non fosse passato davanti alla stanza numero 33, al primo piano del Mozarteum, erano, come ricordo, esattamente le 4 del pomeriggio, 28 anni dopo egli non si sarebbe impiccato a Zitzers nei pressi di Coira, pensai. Fatale per Wertheimer è stato il fatto di essere passato davanti alla stanza 33 del Mozarteum proprio nel momento in cui Glenn Gould suonava in quella stanza la cosiddetta aria. Wertheimer mi raccontò la sua esperienza e disse che mentre sentiva suonare Glenn era rimasto in piedi davanti alla porta della stanza 33 fino alla fine dell'aria. Allora compresi con chiarezza che cos'è uno shock, pensai, adesso. Del fatto che Glenn Gould era stato un cosiddetto bambino prodigio, noi due, Wertheimer ed io, non sapevamo nulla. Ma se anche ne fossimo stati in qualche modo al corrente, non l'avremmo certo tenuto in gran conto, pensai. Glenn Gould non fu un bambino prodigio, fu fin dall'inizio un genio del pianoforte, pensai. Già da bambino andava ben oltre la padronanza tecnica dello strumento. Noi due, Wertheimer ed io, avevamo per così dire le nostre case da isolamento in campagna e da esse scappammo lontano. Glenn Gould si costruì la sua gabbia da isolamento, come chiamava il suo studio, in America, nei pressi di New York. Dato che Glenn ha chiamato Wertheimer il soccombente, devo dire che lui, Glenn, era l'inospitale, pensai. E il 1953 devo invece definirlo come l'anno fatale per Wertheimer, perché nel 1953 a Leopoldskron, nella nostra casa dello scultore, Glenn Gould ha suonato le variazioni Goldberg solamente per Wertheimer e per me, e questo è accaduto vari anni prima che egli, come si dice, diventasse di colpo una celebrità mondiale suonando appunto le variazioni Goldberg. Nel 1953 Glenn Gould ha annientato Wertheimer, pensai. Nel 1954 di lui non sapemmo più nulla. Nel 1955 ha suonato le variazioni Goldberg nel teatro del Festival. Wertheimer ed io lo sentimmo dalla soffitta del teatro insieme a parecchi scenotecnici che, pur non avendo mai sentito un concerto per pianoforte, sono rimasti entusiasti di Glenn e del suo modo di suonare. Glenn, che ogni volta era tutto un sudore. Glenn, l'americano canadese che senza alcun imbarazzo ha chiamato Wertheimer il soccombente. Glenn, che nell'osteria di Gunsworth ha riso in un modo come non ho mai sentito ridere nessuno né prima né poi, pensai, e lo paragonai a Wertheimer, che è stato l'esatto opposto di Glenn Gould, anche se questo contrasto non sono in grado di descriverlo, ma proverò a farlo, pensai, quando riprenderò in mano il mio saggio su Glenn. Mi chiuderò in casa nella Calle del Prado e scriverò su Glenn, e allora con assoluta naturalezza riuscirò a capir bene Wertheimer, pensai. Scrivendo su Glenn Gould farò chiarezza in me stesso su Wertheimer, pensai sulla strada per Traich. Andavo veramente troppo in fretta e mentre camminavo mi sentii mancare il fiato, mi venne la nausea, la vecchia nausea di cui soffrivo ormai da più di 20 anni. Scrivendo su Glenn Gould farò chiarezza in me stesso sull'altro, Wertheimer, pensai, sentendo di continuo per poter scrivere su di esse le variazioni Goldberg e l'arte della fuga dell'uno di Glenn. Riuscirò a sapere, dunque, ad annotare sempre più cose sull'arte o la non arte dell'altro, di Wertheimer, pensai, e ad un tratto mi venne una grande nostalgia di Madrid e della Calle del Prado e della mia vita in Spagna. Una simile nostalgia non l'avevo mai provata per nessun altro luogo. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.